fa l'imbusciacca la garanzia. No, non è così, no. Fa l'imbusciacca la signora Rasmi, nulla. Molla la zima. Certo, uno la mia addirittura in carriera mi è venuto e che mi vicino. E la gente tua lo fa e poi a usare i carabinieri, quello con quell'antenna là. Quello li disturba tutti, il carabinieri la dice, quello se c'ha quell'antenna là, vuol dire che è regola e la può tenere. Dunque cos'è che vuole lì? La pigliatura bene si è avviato. Fatti una bella figura quando si è avviato. Non per niente, apri la bocca, non sa cosa ti senti. Ehi, tutti i macchi, cazzo. Uno quando viene via in macchina in salonga galonga al centro della cappotta, alla base magnetica. Uno addirittura mi ha domandato se travagliavo in la polizia. E voi lavoro nella polizia, perché cosa c'è? Mi sembra la sigma era, 275. Ehi, al centro della cappotta, a base magnetica. Mi pare la via da Lucca. A chi sta tua macchina? In macchina la giocata a me migliora e la giocata bene. E a Luca mi sembra l'ho regalata. Io la mia, perfetta poco dopo va la via. Ma dopo il maestro da capo ha trovato l'antenna e si è sbiastato 10 antenne. No, me ne avevo comprato una buona, mi bella. C'aveva anche la carica, dove c'è la carica, la molla tutta attorcigliata. Con il vetro trasparente, lo sai che bella che è? L'ho usata una volta di qui sulla ringhiera e da voi me l'ha domandata uno del villaggio venduta. Villaggio venduta, non so più di chi sei la giubbagata io. Vai, vai. No, io viaggio così, ma pensi, dal 27. E della Sigma, no? Lem, è una Lem. E fa la carica trasparente. È un antenino meno lento, ce l'ha altro 90 cm o di più. Però funziona bene. No, chi c'è la vetta lunga, lo stilo? Adesso non mi ricordo quanto era lungo lo stilo. Era un bel lungo lo stilo. Era bella, mi funzionava che era una bomba. Ma chi ti ha detto se ve la vendia per la gioventù da subito? Tanto non me ne fate la ruta. Anzi, mi raccomando, mi dai i piedi. No, io faccio una Sigma 1000, diciamo, quella borsa è un acciaio inossidabile, e alza 1,75 e fa una carica, sarà almeno 10-12 cm. Ne ho anche una, mi sembra che 2 metri, c'ha 3 radiali spioventi. E deve essere sopra i nocchi, rimunita nel soppalzo. Nuova, nuova, nuova, mai l'ho usata. Allora è una gran prendice. Ehi, non l'ho mai usata, è ancora 30 nella bocca. Mai fai non usarla. Falla in dinamica. Ehi, ce l'ho sul soffalzo, sul tarrato, e ci subiamo del roba. Ma che io voglio una cosa, da poi la picco e ce l'ha quelli che vi sopra. Capito? Ehi, c'ho un sacco di roba, il giorno che l'ho libero, mi può capire se tutta la cosa che fai sotto i libri. Il deposito è, tu a Marcello non ne fai nulla allora. No, mai arrivo tutta roba nuova, per dirti. C'è una macchinetta anche per tagliare la legna. L'ho comprata il giorno che mi ho comprato le porte e in bagno ho fatto il pavimento sopra il vecchio o nuovo e la porta la dovevo accorciare. Agitavando apri come mi piglio la macchinetta. Sono andato, non ho pigliato la macchinetta. Ho accorciato la porta, l'ho messa nella scatola e ce l'ha giocata anche lì sopra. Ed è sopra il soppalzo anche quella, è nuova, una volta solo l'ho usata. E cosa l'ho usata? 10 minuti per accorciare la porta. Quando segui la roba, non te la fai, serve sempre. Io sono due tipi, ne ho una come la cosa, come la moletta, però con discontate la legna, ferro, roba. E poi un'altra ai pini. No, maletta ce ne ho, ce l'ho grande, c'ho quella della stilo quella grande, nuova nuova, l'ho usata da poco anche qua. E è una moletta piccola, ce l'ho grande e piccola, poi c'ho anche la macchinetta taglia mattoni, nuova nuova, la usavo per lavoro, però è nuova, luccica. Io vado via a travagliare, me la burivo tutta, la lavavo bene, la asciuttavo e la buniva la cattura suia. E come se non va un pizzico. No, io in campagna quando usavo la zappa, rastrello, porchettone, apriva la bomba a pressione e la lavavo, si la buniva dentro in un magazzino buito, era di bongo, la roba brutta dentro, no. Tutto, anche del cespugliatore quando lo uso, una volta che ho finito, l'uravo di tutto quanto, lo preso, non esci d'erba che magari è rimasto attaccato. Lo faccio nuovo di nuovo, lo pulisco bene, lo smonto e la rimuno, dritta la cattura suia. In più di un serbatoio, anche il carburatore, lo faccio consumare tutto e lo conservo. Io so, la miscela la lascio sempre, non la tolgo mai. No, io ne la leggo dal carburatore, se no si spacca le guarnizioni, allora devi giambare i guarnizioni. Era un 2 anni che sta poi là in moto. La cosa mi seguiva, ha citato la condizione, la prima di cosa è passata. Però io glielo svuoto, la faccio consumare tutta la miscela, anche quella del carburatore. Perché se no ti brucia le guarnizioni. Sì, perché sono delicate, sono un foglio di coso, di bambino, non è manco puro, cartavellina pare. Infatti io già ce li ho, mi ce li ho qua in un'agenda, in mezzo a un'agenda, le avevo comprate di scorta e ce li ho anni e anni dentro all'agenda, dentro la bustina ancora. Le avevo comprate all'agricola sassarese. Io l'ho preso, l'ho 2 mesi fa, da cosa, da Alibunti, non si chiama adesso, non ho una parola, che vende macchine agricole dopo l'aria, vengo pure l'officina. Pinuccio Sanna si chiama, che è in via Domenico Millini, sulla strada principale, che c'è anche il lavaggio. Ehi, grazie a lui, e lui, e lui, esso, infatti ho portato la vecchia, ho fatto uguale, identica, anzi ho fatto che vende la vecchia e poi vende la nuova, poi lo sbagliamo, è uscito un capolavoro. Ehi, se te lo sto dicendo, quelle lì però se lasci la miscela all'interno, te le brucia, capito, col tempo. E tu ti puoi ammazzare, quando ti ribrucia non ne batti, perché l'ha fatto a me e con l'altro del cespugliatore, chi da poi l'ha già ricattato su un bucaccione a farlo via alla buzzi e mi ha detto è ingrippato, l'ha detto fai una cosa, preparamelo che passo a prendermelo. Io cosa te ne fai? Cazzo di Dio, non cosa, non mi vuoi. Dimmi quanto ti devo dare, però non glielo faccio aggiustare, perché non era vero che l'ha grippato. Perché quello voleva comprare quello che c'ha lui. No, la fastidio, voi te ne raccontate, quello gli ha avuto i buchi, un giorno si è tagliata la messa in moto, la condizione della messa in moto, è saltata la cosa, la molla dall'incasso. Mi ha giù cavata, adesso ho calzato anche la vita, trovavo 10 minuti, a tutta mira. Arrivo, ho trovato cose così. E dice, c'è un mucchio di lavoro da fare, bisogna che me la lasci, era lì di che cosa. Dice, passi verso le 3 e mezza, quando apro. Va bene, mi sono passato. E mi ha detto, pronto? Sì, altro problema, 15 euro. Ehi, è un lonfio, è un ladro, chissà. Infatti non gliel'ho più portato, sta attivare la porta da Pinuccio Sanna. Chi è un ladro, fa il baccatissi rusoi, uno, già me l'aveva detto Giammari, se ti compri questo me li sto vendendo io, no, la capisci, non ha di comprare proprio nulla, dammi il decentrugliatore mio, cazzo non è macco. Io l'ho portato una volta, uno ne l'ho portato. E vai, te dice questo ormai, dice, sono vecchi e non so il peso, un cosa e l'altro. Ah, tu vabbè, se me lo vuoi aggiustare, me te lo lascio, se no me lo sto portando via. Intenso così, allora dammi la contatto, che mi ha fatto una fissa di cuore, ma parlo per la membrana. Beh, 25 euro, comunque, come riparatore è bravo, fa dei bei lavori, solo che magari siccome lui c'ha una rappresentanza dei suoi spogliatori, capito? E lui certe volte dice cazzate del genere per comprare l'usuio, capito? E allora saranno, certo ammacco. La fiducia sana si compra bene, dai, per cui c'è anche l'officina, per cui fa anche delle riparazioni abbastanza buone, dai. Sì, fiducia sana è bravo, già te lo ripara, ti mette la roba nuova e poi non è neanche un caro. Invece chi si vede, dove c'è Aroni, chi si vede la gonza, chi è un ladro infinito? Oh, avanno Mariani, unia ladro. Un altro, ma vai a se so prendi in riga, perché sennò la gente comincia a invadere a Stilug, ma con sali, capito? Già sono più bravi, va. prima magari sorci, era che più furava di più e era Givi. Cazzo, la reclusa c'è spogliatore a controllarlo. Torro e mi dici, no, chi c'è lui? No, lui c'è spogliatore è mio, e dico, allora che ve la decretta pennarello? Camburi, chi c'è lui mio? Abbandatela. No, questo non è lui. Ha detto, beh, fa una cosa, dammi il c'è spogliatore. Cazzo, non mi voglia dare un c'è spogliatore, mi voglia dare un altro c'è spogliatore. La città va, ti chiamo i carabinieri. Cazzo, mi ha scritto pure il nome, ma è embriaco, sì. A vedere se mi l'ha data, che mi sono incazzato. Ma te ne immagini, la gente che c'è il macco, Ciao, Graziano! E tu, Bacchina, che ti servi quando devi fare le riparazioni ai cespogliatori? Ciao, Graziano! Non ti sento, no! È un ballon più male. Avanti Giovanni, cambia zona, sei... Attendi, no! Io. Aspetta, che se te ne stavo parlando, perché disturbi, cazzo? Aspetta che quando finisco e se vuoi entrare, entra, capito? Beh, che c'è, no! Cazzi! Riprese, Bacchino, t'ho capito. Ho detto, sei basso Giovanni, come mai ti sei abbassato tutta la volta? Cosa è successo? Io ti sento basso, mi Bacchi. Basso, in mezzo a quel reme ti sento, non lo so. E allora ci diamo la mano. Basso sei tu, basso sono io. Da due bassi ne esce fuori uno alto. Sei tu che stai andando basso, Bacchisio, sei tu. Infatti, grazie, tu mi senti basso a me. No. Infatti, Bacchi, allora l'apparecchio tuo è... Allora, figlio che ho messo, che ti ha chiesto fuoraggio, e fai l'umaro e fai oggi, Bacchi. Ciao Giovanni. A casa. Sono col portatilino dentro casa col gommino. Alzati un po' il volume, Bacchino, se non lo senti a Giovanni. A Massimo sono. Chi era l'altro signore che mi ha detto qualcosa? Avanti. Io, ma non mi senti che sono anch'io col gommino, mi senti Bacchisio? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera, ti sento bene, però non ho capito chi sei, sono un po' ribambito. Sono uno nuovo, ho comprato queste radiette a Piazza Attola, riprendi Gianmarì. Certo che si sente. Allora, ma a casa sì. Ma sono in gommino anch'io. E tutti in gommino siamo. Proprio, va bene. Comunque a tutti bene, saluta Lauretta. Aspetta, faccio una domanda. Quell'animale a tesa materiale ancora vivo è Bachi? Quello a tesa materiale. Che materiale? Illuminami. Il TV è venuto un parente tuo, se l'ha ritirato, che ti ha ordinato il materiale, però stava respirando ancora. Stava respirando, non è morto ancora? No, no, era vivo ma sta arrivando il materiale, quando arriva già chiamo. Non ho capito chi è questa persona, che non riesco a capire. Sono uno nuovo. Vabbè, dai, sto facendo delle cosette, vi ascolto. Ehi, no, questo ha comprato il materiale, Vito, non ho capito chi sia. Io l'ho comprato il materiale, l'ho ordinato, quando arriva già ti telefono. Ah, il mio, il materiale mio, cerca di essere un po' veloce, perché sta cominciando a fare le bizze. È già tanto che vivo. Cioè, è vivo ancora, ma non per molto, penso. Perché se vive tu non le vedi a riparare. Tardano, ci vuole un po' di tempo per riuscire a farlo a prezzi accessibili. E poi l'unico posto dove si trovano, capito? Capito. E poi c'è il mare da attraversare e via dicendo, Vito, hai ragione. Ehi, il mare, dalla Corea arrivano quei ricambi, altro che mare. Un bel corrieri. Viaggia per terra o viaggia per aria? Vabbè, ci sentiamo dopo, ciao ragazzi. Ciao Vittorio, ciao, salutare a Lauretta. Ah, grazie, ciao. Ciao Vittorio, ciao. Ciao Vittorio, ci sentiamo, alle prossime. Buon proseguimento. Riprese, grazie. Eia, vado a fare la visita ginecologica, riprendo dopo. Riprendi tu, Gianmari. Mi raccomando, parla con calma, con delicatezza questa visita. Capito, grazie, mi raccomando, Riprende Bachi. Tore, non l'ho sentita ancora, come mai? Tore, va bene, Tore, si è persi la bufera. Attento, Tore Squalo. L'ho chiamata anche in M, nulla da fare, non c'è. Nulla, a ciò che è andato Giovanni. Addirittura, no, mi piace la gioca, gatta, forse fa dalla magna all'altri, a chiedere di magna. Bobo, adesso sei uscito più bene, Bacchi, adesso mi sento perfetto. E adesso ho cambiato radio e mi sono messo a centro tavolo. Era nell'angolino l'altra radio, adesso mi sono spostato al centro tavola. E adesso va più bene, va. Bene, va. Oh, non c'è altro nessuno, no? Se c'è qualcuno avanti. Ah, non c'è nessuno. Ciao, Gian Maria, ciao Bacchisio. E ben ascoltato anche a cosa? A Vittorio, poi gli altri che si sono in ruota. Vai, Gian Maria. Caccia. Tutta i giri si ricappi, il trullalino si ricappi a Marue, Fittina, ti piace un po' che passeggiaggia? No, è la carica, a trovare la mia zia, che ero da un po' che non ci andavo. E sono arrivato un po' canzi, dai, 5 minuti fa. 5-10 minuti fa, dai. Hai fatto bene. A me l'hai passato la sera diversa dagli altri. Ok, Graziano, facendo la visita. Anche signor Bacchisio, anche signor Bacchisio per Emanuele. Ehi, salutiamo Emanuele, buonasera Emanuele, viene scucciato. Rimani lì, Emanuele, non ti spostare da lì, rimani sempre lì, almeno ti ascolto bene. Ehi, meglio così che mi ascolti bene, dai, col gommino in gomma. Tutto gommino, Una terra è classica, so Bacchi. Ancora a te, vai. Fai bene, Emanuele, fai bene. Usa tutto plastica, non usare altra roba, plastica solo. E che cosa è? Il signor Miserino, non sentito lo hai? Non lo so, sono entrato adesso, Bacchi, non lo so se c'è qua, non lo so. Fallo la chiamata, dai. No, in tutta la mattina non l'ho sentito, ma pensavo che avessi sentito tu. Vediamo se, Marino, ci sei? Bacchi, chiami a Fiorellino, vedrai che ti risponde. Lui Fiorellino, io sono un fiorellone, è pure appassito. Vabbè, no, sentite, ancora infatti deve essere impegnato, deve essere. Cazzo, come può essere impegnato anche a Tolto, deve essere in bicicletta, col carapresso, cazzo. Ma fra poco rientrerà, sono già le 7:20, così che fra poco rientrerà lui. E anche Marino. Se è libero già entra, dai, Bacchi. Cazzo, è sempre impegnato lì nipote, gatto, tu pure, gatto, lascialo giocare, gatto. Ehi, è così. E poi a Torre gli ho detto, comprati la bicicletta mia che c'ha il cestino. Quando sei stanco ti siedi dentro e ti fai trainare dal cane. Vedo un po', vai Emanuele. Cazzo, Bacchi, mi sa che ecco che è un cane che ti rende a Edo, non è che Edo che te la rendi. Edo si posa, lo dirò a Lugani, la lega Edo a passeggiare, Lugani è la lega a passeggiare. E che tu lo sappiamo già da un bel tempo, ma noi, che Lugani posa Edo a passeggiare, allo contrario della cosa che fa. No, vediamo un po' se c'è arrivato Marino, cioè, è ora di essere già in strada. Marino, l'ufficio collocamento aperto, ciao Manuel. Che cosa c'è con me, fiorellino? Mi pare che sei lì un fiorellone, Edo, ma la sicurezza che la buca e fenda, ecco che ciò, gare. L'onfio, mi sa più ricchi di noi, e se vanno qua dentro, mi posso arrabbiare. Andale, ma mi ascolti basso perché, Giomari? Cosa? Mi ascolti basso, Giomari? Non te l'hanno chiuso, se no fi credervi. E beh, Bacchi, tu come mi ascolti in quelle zone, in Campania? No, sono a casa, lo sai che sono a casa, sono casalingo. Andale. Ah, ti ascolto bene, Emanuele, va benissimo, mi illustro, sì. Col portatilino, col gommino, tutto gommino, Tutti con gommino sono, Bacchi, tutti con gommino. Sentita Vittorio, tutti con gommino sono. Vittorio pure con gommino, bobo. Ehi, anche il gommino avrà usato anche lui. Lo so io, boh, caspitina. Vedo un po', anche Emanuele, vero Emanuele? E allora io sono andato con gommino. Io sono da te con gommino, l'antennino sarà 30 centimetri. Un po', già 3 piedi, già va bene, là. Già va bene, vai i Bacchi. Ehi, anche io sto usando il gommino. Per attaccare il gommone, capito Emanuele? Per attaccare il gommone devo fare un po' più di strada, invece così non fosse tutta. A camminare mi dà fastidio, dunque col gommino facciamo tutto. La questione comincia a Sicilia però vabbè, e cosa ci vuoi fare Bacchi? Cosa ci vuoi fare? Bisogna te la faccia la bella meglio. Oh gommino, senza gommino bisogna andare. Ehi, è sempre gommino, come diceva Mikey Buongiorno, sempre più in alto con grappa pochino. Oh yeah. Spesso mai si cose guai, cazzo. Avanti, Manuel. Tonino. Ho sentito toccarsi al telefono. E poi basta. Vabbè, vediamo un po'. Graziano ancora facendo la terapia. Per cui schiava a te il microfono, Manuel. Ti rientro subito, ogni tanto devo scappare. Ehi, tranquillo, Giamari, dai, tranquillo, già siamo qua. Vai, Bacchi. Ehi, dai, siamo qua, Giamari, vai pure. Vai, ritorno, siamo qua, ad aspettare. Nel frattempo arriverà Mister Tole e Mister Marino. Ehi, bebe. In tournée sono, Bacchi, sono in tournée. A me mi pare si sono andati a Ciocca tutti e due. Si sono andati a Ciocca tutti e due, a Ciocca Minuta sono andati. Sì, e dove è una villa, se manco Ciocca Minuta, beh. Oh, ma no, è troppo di Ciocca. Ah, gruppo. Chi vuole entrare sotto, avanti? Chi vuole entrare davanti? Sì, non è gana di entrare, vai Bacchi. Ehi, entra. La Ianna è a becca, canta in trasarla e andiamo bene. Adesso vivo. è così la vita. La vita è un passaggio. Ehi, è un passaggio, sì. Oggi ci sì e domani chissà di sì. Ah, boh, non si sa, non si sa. Io oggi andavo a fare i biglietti per Caramascio. Mi faccio solo per fare la stanno per lo stato. Sa Caramascio, andare. L'agitatore ci ha scioccato. Hai stato voi te lo vostro biglietto per Caramascio? No! Adesso da Altimuddo. Allora, Altimuddo ha il vostro biglietto. Ma se il vostro biglietto lo posso risparmiare. Per carità, la stiamo andando bene. Adesso al 9, Bacchi, siamo tutti bloccati intorno, Ha detto il capo, il 9, tutti chiusi. E che cosa, Manuel, tutti chiusi il 9? Tutti salvati in casa. Ah, così ci saremmo in casa e ci fermo un coso. Un giro di... Andiamo, dove andiamo? Potete vedere la iatta, ma noi ci mangiamo la iatta cruda e buona. Me la va a vedere il casino che succede, tu non ci crederai, Bacchi, il casino che succederà qua in Sardegna, se fanno questo passo qua. Ma sono in Sardegna, dovevo chiudere i porti e l'aeroporti, non so cosa cando. Cos'è? Non sei italiano? Vai a galera, fidati. Invece no, apri le braccia, dice, ma non venivi su paparazzo che era una figante alla sola. Guardate la magna, abbi. Vestito e poi gli bucciacca. Perché? Perché li fanno entrare? A che vi guadagna li danno entrare a che bassoni? Non si sa come intendo io, no? Tutti voi siamo andati a rotoli, oggi ne sono morti 34. Figurati. Alla negli ospedali è tutto bloccato, proprio intasato, non fa niente più a nessuno. E poi dice che aveva l'esercito anche qua in Sardegna, A tutte le parti, i medici non ci sono più, sono tutti impegnati. Sono più malati che i medici, capito? Non riescono più a seguire la terapia. Lo so, a chi ne sa troppo, non comprenderebbe nulla. Adesso ti sei influenzato, te pensi al Covid. Seguito, vado, sei tutto, te preso il Covid, ormai è tutto Covid. Cazzo, accendi la televisione, se lo dici su, oramai si fa vita. E tu accodi? Avanti, Marino, buonasera. Oia, ciao Bacchi, ciao Manuel. Tu cosa accodi tu, Manuel? Il Covid, oia, io covo solo, non nascio Covid io. E ora? Oia, vediamo, fa finita. Avanti, Bacchi. E noi pensando al male, che dice se è la ciocca minuta, se è la ciocca grossa, che è da funghi, boh. Ma lui ne ha detto tutti i colori, avanti, si è accelato, meno male, se no voglio continuare il tuo vocabolario. Avanti, Manuel. Aspetta, Manuel. Adesso con tutta la sera ascolto, io poc'anzi, sinceramente non ti ascoltavo, ero 0.0. A Gio Maria l'ascoltavo, ma era sempre col QRM, figurati. Boh, era momenti. Avanti, Manuel. A me sa il QRM a Gio Maria, sano, perché stavo usando l'antenna su. Ma anche a me mi ascolti mezzo al QRM. Basta, stavo facendo una cosa. Non te lo voglio dire, dai, sono io. Se no gli allungavo un altro pezzo di gommino per ascoltarmi meglio. Sì, che fai su gommino, non porta come hai pure un rubinetto, poi in punta buono. Va, batti. E noi uno la chiamava da Marina, Marina non rispondiva, proprio, nulla. Poi c'era l'attore che non si è sentito per niente, deve essere impegnato, ho andato alla figliura, ho andato a squali, ho messo a metà, devo andare a fare caccia di squali. Ti sento, c'è un po' di QRM, Bacchi, capito? Ti sento un po' in mezzo al QRM, quindi, boh, non lo so. A Gio Maria Ide, lo stesso, poi c'era Graziano, è tutto sparato, Graziano va tutto sparato. Bene, Mela. E allora, Manuele, tutto a posto oggi, sì? Sì, oggi ho passato una giornata diversa. Infatti, le stavo dicendo a Gio Maria, ero tutto il giorno a carica, da mia zia a pranzo. Era tanto che non ci andavo. E niente, sono arrivato un'ora fa, dai, sono arrivato a casa. Sì, ok, dai, meglio così, dai. Meglio che no, io sto giù a casa, mi ero un po' in ascolto stamattina, girando. Poi c'erano tre persone portatori stamattina, poi è stato Bombo, è stata un'altra persona, poi è stato anche Tonino, ma 10 minuti dopo io ho chiuso perché mi hanno chiamato. E così via. E allora, signor Bacchiso, anche oggi è peggio di ieri? No, non ne parliamo più, caro. Peggio, le cose stanno sempre andando e peggiorando. Invece migliorare stanno peggiorando, sempre più a rotoli. Domani vediamo un po' se c'è il veterinario. Domani ci andiamo, a vedere cosa mi dice. Un po' di pazienza, Bacchi, un po' di pazienza. Ci vuole pazienza. Purtroppo è così. C'è anche l'età, ci sono le cose, le freddure, la roba che abbiamo fatto da giovane, e tutto insieme, non vedo dove va. Avanti, Manuel. È così. Ti stavo dicendo, Mari, che fa un po', mi raccomando, chiudono tutto, fa un po' come a Codici di Gaza, perché adesso c'è già l'esercito in agguato. Ti ha detto, io posso uscire, c'ho il permesso, c'ho l'autorizzazione, io, l'ha capito, c'ho il permesso del prefetto e posso andare a scopare dove voglio, l'ha capito. Sì, sono scappato dove vuoi e basta, nella tua zona, e poi subito a casa. E vabbè, intanto faccio quello che devo fare, dopo andrò a casa. Allora, vai, Bacchi. Ehi, non so se avete visto a mezzogiorno, corso via De Nicola, all'ospedale civile, tutto circondato dai carabinieri, non si può avvicinare. Ti è sparito, ma chi? Ho detto che stamattina, mezzogiorno, ho visto la TV e c'erano i carabinieri in via De Nicola, in via Italia, a ospedale civile. Ho sento io, Ma chi sei sparito, Sei in mezzo a quel REM, ho capito solo, via De Nicola, c'erano i carabinieri e dopo sei sparito. Sì, ha detto che c'erano i carabinieri in via De Nicola e via Italia. E il costo presidiato è. Lo so, è un casotto. E guarda, ieri mattina sono passato in via la traversa di via Dante, dove c'è il bar. Tutti seduti fuori, a greffa di 3-4 persone, tutti senza mascherina, senza niente. Io il locale avrei chiuso a quello stronzo. Quello lì è uno stronzo e basta, non hai capito? Lui basta che incassi i soldi e se ne sbatte di quello che sta succedendo. Io l'avevo chiuso. E c'erano tutti i banchi pieni e non c'era uno con la mascherina. Figurati, avanti, Manuel. E dopo si lamenta, mio marito. Dopo si lamenta, non è successo questo, è successo l'altro. Io lo stesso sono passato stamattina erano tutti senza mascherina, furono abusati nel tavolino, nei bar. Figura, dopo si lamentano. Ah, fa bene a chiudere tutto, ma che impara. E non gli ha vedato manco dei franchi, l'ha vedato. Avanti, Bacchi. Sì, ma quello fanno così è per provocare la gente, per dirci, esci, oh, abbiamo questa mascherina, vogliamo vedere chi arriva, per fare provocazione. Invece, trovato, devi fare bene a culo e a Trento. E già le stavo mettendo le multe comunque, Bacchi, le multe già le stavo mettendo, le stavo bloccando piano piano e sono 400 euro, le stavo mettendo, proprio parte, che già ne ho messo un paio anche davanti a me, capito? Hanno fatto bene, con questa prepotenza che ci avevano questi ragazzi, l'ha detto, a manca se la bagari, avanti Emanuele. Vabbè, vabbè, infatti adesso ti dico un'altra cosa. Qui a fianco, se tu sai, quello che lavora al coso della Mondessa, che abita vicino a me, Maria, hai capito chi? A fianco c'è questa ragazza con la nipote vive, e questa ogni mattina riporta i piatti pieni di roba e li mette nel marciapiede dove c'è il cassone. È passato mio fratello della divisa con l'altro collega e gli ha detto: la prossima volta ti faccio il verbale, perché cazzo, qui è un coso per un marciapiede per passare, non un marciapiede per mettere i piatti pieni di pasta e balle varie, e non si può neanche più passare. La prossima volta gli ha detto che lui faceva il verbale. Allora cosa ha ripuso? Ha detto che lui tanto si ribono di può mettere qualsiasi verbale, tanto non è paga. Dimmi tu che ragionamento so. Sì, se metto verbale ho pagato sulla stessa lunghezza. Io già le becco io con le persone che fanno così, che da mangiare i gatti, così via. Allora, c'è la gente, una signora mi ha detto: io ho l'autorizzazione al sindaco, benissimo, lei ci ha permesso al sindaco, però per tutta una balla, no? Lei deve dare da mangiare i gatti, allora lei deve da mangiare i gatti, rimane davanti ai gatti, una volta che il gatto ha terminato di mangiare, ritira il piatto, lo getta nel cassonetto. Invece io la faccio, non vedo i piatti, prendo e butto tutto, ogni mattina, e sono le persone che vanno a pazzoccare e si lamentano col vigile, hai capito? Ogni mattina è becco, butto tutto quanto, ma fotte nulla, poi vengo a dire a me, poi a dire al comune e via, è un casotto, chissà niente, vado in appa a mangiare, a mangiare i ghiacci ogni giorno, che buco, hai capito? Avanti, Bacchi. È come quello di fronte al garage, se tu lo hai visto di fronte al mio garage, non c'è poco piatti, piattarini, tegamini, no? Di tutto, beh. Perché porta a mangiare ai gatti questo coso, come si chiama, parrucchino, porta a mangiare i gatti, e non succede, i gatti non se lo mangiano tutto, arrivano le cornacchie, arrivano lì, e dopo i piatti sono in pace, che le macchine si passano in alto e li mantineggiano, è sempre un montinaggio, sempre un montassaio. Perché vogliono presi quel piatto e messi davanti alla sua porta, capito? Buttati nel giardino. Già ho capito che sto dicendo, si chiama Mula, un parrucchino, quello che lavorava lì nascente. Quella Mondessa vuole presa, è messa, buttata nel giardino vuole, che è la sua. A manco impara, compreso, Avanti, Manuel. Io penso, bigliagliata, la colli, la buona serinetta e la mangi. Buona rete, grazie, buonasera. Ma se cosa ne butto io la mattina, voglia, c'è lo solito, c'è gente che vira con me, proprio mi piglia a bozzi proprio, si incassa in proprio. Ma non a me non mi ha fatto proprio nulla. Avanti, Emanuele. Vabbè così. Ciao, grazie, buonasera, vai, grazie. Ciao, no, mia moglie è venuta la gatta, che vino, che io. Aspetta, anzi, la gente se lo mangia, che se non passa nei cani e da fuggio se li mangia nei cani. Invece aspetta che andrà finito, lo biglia se non la fa la butta, che fai appiccare dall'albero, quando è piena se la butta la Mondessa. E niente, o se no se la gatta ne mangia poco e lo dà che lo biglia nei razzi, no, che la appoggia il terrazzo. E la sera quando la vedi il se lo fa se lo mangia. Ma che bisogna fare così, grazie, così va benissimo, io non c'ho nulla io con i gatti, anch'io ho i gatti in campagna, per carità, nulla a dire. Poi ci sono ciuchi, tu vai c'è lo storico, è pieno di topi, i topi vanno dove c'è da mangiare. Poi c'è un paio di signore, la mattina presa, tu le vedi, queste 5 e mezza, 5 mesi in giro, con queste borse grandi, mettono a mangiare crocchette, roba di, come si chiama, aprono le scatolette. Ho preso, tu non sai quante volte vedo il topo mangiando quella porcheria, oggi a nastro, pieno, poi lo sai, sono solito che è pieno di topi, figurati. E ho una ciappola, il bicchiere si rampo. E dice, andai di incazzarsi, ehi, fai uno di piazza, a me proprio non mi interessa. Se tu la roba di piazza, ritiri, a me non mi costa nulla, te la lascio, però se tu avvisi il bicchiere si rampo tutto, avanti va chi? È chiaro, si vede un po' tutto, però se lo piatto, dai scetti, quando mangia si lo rampi, poi se no lo fanno, io lo vuoi e si avviano. E dopo arrivano tutti i coroli, sarroli fino al mondo. Di fronte al garage vedremo stessi sarroli più male della iatta, più male della iatta sono. Esatto, allora ti dico una cazzata, in via Turitana c'è un amico che vende roba di sigarette, queste roba di sigarette elettroniche, no? E c'è un cestino, c'è, lo sto tentando, mi ha detto ieri sabato, mi ha detto che mettevo la micro telecamera nella serranda, eh? Ogni mattina passa e vede pezzi di pane bagnato, pezzi di panettone, pane passa asciutto, ma tutto grande, ma quanto è grande la strada, quanto è 3 metri pieno di roba, una porcheria. È una porcheria. Ogni tanto la volta avevo un giorno, ma niente, entrano le cose. E ora allora stiamo tentando, ho capito? Che stavo già avvertito. Adesso questo io voglio vedere il viso di questo. Secondo che il viso c'è, lo conosco e mando i vigili. La macchina impara, avanti Manuel. È così. Vabbè dai, mi stacco un attimo, che devo spiegare delle cose, Mari. Riprendi con Bacchisio, dai. Vi saluto, se in caso non riesco a entrare, vi saluto già da adesso, dai, già ci sentiamo alla prossima. Ciao, Graziano, Marino, Bacchisio e poi c'è Gian Maria che è in ascolto, dai. Riprendi tu, Bacchi, fa girare. Bene, bene, Emanuele, ciao Emanuele, buona serata, buon QRT, buon tutto, a domani se coincide ce la chiacchieriamo ancora. Avanti Marino, riprendi tu. Ciao Emanuele, beh sentito, vai, buona carica per stanotte, a domani se coincide, là. Domani dove esce tardi, tutta la settimana tocca a me. Bene, bene, avanti, grazie. Ciao Emanuele, alla prossima, buon proseguimento in serata. Viso un paio di niente, bucacciona. In occhi mattessi per una signora di rugratta al cielo. Farà, li buoni rimagnassi, borsa chi, i candani finiti di mangiare, mi bigia le piatte e si raccua da rizza un albero, che c'è lì, a chi vi li buoni un amanzano. Li dà da mangiare 3 o 4 volte a radi. E mia moglie è la stessa cosa. Glielo dà, la mattina se la vede prima di uscire, poi glielo dà verso la una, chi è sotto i chibi, a zittenni, la iatta, viene apposta, e poi la sera, oggi stamani mi l'apporto, sicuramente si abbia già mangiato una dirighetta, e non ne ha mangiato, l'ha fatto rubiato e mi l'ha apporto lui del razzo. Fatto bene, così va bene, ma chi lo grazie. Interessante che uno ritira il piatto, capito? Lo ritira, lo mette nella busta, vabbè, ma c'è molta gente che lo mette sotto la macchina, sotto qua, sotto là, da buoni soldi, che da buoni si lamenta, è pieno di toppi, già lo credo è pieno di toppi, un solo quando ne per la mangiare, ne per un bigolo, come ne fanno? Avanti, va chi? Ehi, è così, dai, io devo scappare. Ci sentiamo domani, ciao, un saluto alla signora e company, ciao grazie, buona serata anche per te, salutami la signora, a domani se coincide ce la chiacchieriamo ancora, riprendi grazie. Ehi, ciao Bacchi, buona cena, buon tutto, saluti al Correa, alla prossima, a domani se coincide, ciao Marino, riprendi. Sono ciao Bacchi, ben sentito, da domani se coincide. Saluto in casa, la sentiamo domani, dai, avanti, grazie. Un bagliette puccacciona, gli anni vecchi, nonchi. E invece mia moglie quando vede che non se lo mangia nel piatto né lo sale, non gliene lascia. A chi bisogna i cani di uno che sa di no, che sono sempre fuori, li cappa e fa i battiti nei ridappi, prima entrano i nonchi. avessi per piatto e roba di mangiare, e poi andare via, un c'ero grasso al cielo, a lui per chi sapeva la mangiare, ma non accattare mai quasi nulla. Si guarda la sua voce, per la gatta, per pulire, di questo Lucana, non sai cosa ha fatto. Si è bagnato tutto l'altro, ha pigliato un piatto, si è appucciato, pure un piatto, più tu. E ti dico che è macco questo, ma è zione, un bel cane così, così. Anche il piatto, soffrendo se lo nascondono, non si sa mai, no, che venga la guerra. Ehi, l'altra volta gli ho buttato, c'erano dei colombi, un paio di pezzi di pane. Ma niente, mica un pezzo di pane, già stai andata al vascone, ha cavato l'angolo, se l'ha portato dentro con un mozzichino, se l'ha tappato e si è avviato. Ecco preso, e se la gatta lui da andare lì, mi scava se Romagna. E questo lo fa anche io, vabbè, lasciamo stare il cane di mia figlia, quello grande, quello lì è riservato. Ma c'è un altro cane qua, un letticcio che fa così, e grazie a Dio, magnano, gli manca chi mangia ogni lì, ma anzi, anche due volte mangia. Ma da dopo la base, non ve la gare, prende, fa, scava e si nasconde la carne o il pane. Quando vede oggi lei non è nuda, anda, non sai che se lo mangia, non preso. Mi nipoti l'hanno dato un rotto guaio, però è cuccia ancora. Stasera mi ha fatto a beffa giugheni, di epoca giugazzato, curreni, cucchegli in terra, siniveni, di ringhi, di fiaca, di vati, ugna, ugna, barano, uglia. La cane a mano, uglia, è un bel cane, bellissimo quel cane, ma quale grande per stare quel cane. Poi dipende chi ce l'ha, chi da destra, è tutto qua. Ok, dai, anche io sono messa con sopra, grazie. Ciao, grazie, ciao, sono in casa. Buona cena, domani si concilia, dai. Ehi, ciao, anche io sono stanco, tanto mi devo controllare la glicemia. Va bene, ciao Maria, alla prossima. Gio Maria, sei in ascolto, ciao, ci sentiamo domani. Ciao a chi è in ascolto, ciao Maria. Sì, ciao Giovanni, buon ascolto, buona cena, dai. Saluto in casa, ci sentiamo domani. Saluto in tutti gli ascoltoni, anche per me quelli, dai. Ciao, ciao.